faccio la confessione in diretta. Io faccio una difficoltà maledetta, manda giù le pillole. Con un poco di zucchero la pillola. Mi scusi, sono un po' nervosa perché è la prima volta che chiamo un programma in radio. È soprattutto uno che mi piace tanto come il vostro. Grazie, Agata. Va giù. Con Marcello ci faccio gli esami con i miei studenti, perché Marcello c'ha tutto, polipatologico. Poi glielo faccio esaminare i miei studenti, in base a quelli li boccio o li promuovo. Tu adesso intercetti i mercati? Sì, sì, vado a toccare l'addome dei mercati adesso, va per tastare un po' qual è la situazione. E denari di Nicoletta Carbone e Deborah Rosciani. Ehi, momento! La macchina del capo! E c'è un buco e una gomma! La macchina del capo ha un buco nella gomma. La macchina del capo. Quale capo sarà quella di Sebastiano Barisoni, Nicoletta? Ci sente stamattina, vabbè, lo salutiamo. Allora, dopo aver inforcato la bicicletta qualche giorno fa, oggi a Nicoletta ci dedichiamo alla manutenzione dell'automobile. È arrivato il momento, cara mia. Le temperature si scaldano ogni giorno di più. Meno male. Anche se per me ancora non in misura soddisfacente, perché ho sempre freddo. Quindi dobbiamo essere sicuri del fatto che la qualità delle gomme della nostra auto sia adeguata alla tenuta del manto stradale, con le condizioni dell'asfalto, appunto, di strade e autostrade che saranno sempre più calde, no? Quindi anche quest'anno è scattata l'ora X per il cambio dei pneumatici, 15 aprile 15 maggio. Si passa dalla versione invernale a quella estiva. Siete pronti a cambiare le scarpine della vostra vettura? 800 24 00 24 per tutte le vostre domande sull'argomento. Dallo stivale al sandalo, insomma. Sì, quello, all'infradito. Quello alla schiava, alla di cui schiava. Parlavamo prima, esatto. Allora, se si gonfiano sono dolori, non parliamo naturalmente di gomme, che sistemeremo nella prima parte della trasmissione, ma di caviglie. Basta poco per mandarle in crisi: un salto, un appoggio sbagliato, un terreno irregolare, un tacco 12 e zac. Te arriva la storta. La distorsione alla caviglia, così si chiama, è uno dei traumi più frequenti da cui originano una serie di disturbi nel breve e nel lungo periodo, quali dolore, la rigidità, il gonfiore, i cedimenti e anche la tendenza a distorsioni ricorrenti. Sembra quasi che storta chiami storta. Se la caviglia fosse una persona, diremmo che se la lega al dito. Ah, ne conoscete sicuramente qualcuno anche voi, no? E infatti la caviglia non dimentica. Spesso, dopo una distorsione, non è più quella di prima. Ne avete esperienza? Vi siete distorti la caviglia proprio in questi giorni? 800 24 00 24, chiamateci subito. Allora, forza bambini, forza, ritorniamo un po' col giochino. Allora, chi vede prima un contadino, 5 punti. Chi vede prima un cavallo, 10 punti. Ehi, ma che succede qua? Che succede? Niente, rivende tutta la macchina sulla destra. Mi raccomando, vai piano, fuori. Andiamo piano, sì, aspetta che adesso accosto. Anteriore destra, come volevasi dimostrare. Vabbè, adesso comunque, senza farci prendere dallo sconforto, vediamo immediatamente di individuare dov'è la colonnina di emergenza più vicina. Ma cosa c'entra la colonnina, Furio? Ma per il servizio di soccorso ASCI? Magda, sveglia di tesoro! Magda era sempre impreparata di fronte a queste emergenze. Invece noi no, perché sappiamo bene che ci sono quelli per l'estate e quelli per l'inverno. Ma molti montano pneumatici validi per tutte le stagioni, perché qualcuno abita in zone in cui forse non è obbligatorio, ma solo opportuno fare la sostituzione. Insomma, Le situazioni sul territorio sono tante, noi cerchiamo di nuovo di stilare oggi una piccola lista di raccomandazioni che possa essere utile e valida per tutto, per tutta la nostra gamma di ascoltatori e tutto il nostro territorio. Buongiorno intanto e ben ritrovato a Fabio Bertolotti, direttore di Assogomma. Buongiorno a tutti. Buongiorno e benvenuto. Reduce tra l'altro dalla presentazione avvenuta proprio ieri a Roma della campagna di sicurezza stradale alla sua 12ª edizione Vacanze Sicure, nata dalla collaborazione fra il Ministero dell'Interno, Servizio Polizia Stradale e le associazioni dei produttori e dei rivenditori di pneumatici. Intanto, prima di raccontarci quali saranno i termini di questa 12ª edizione di Vacanze Sicure, subito convoco i nostri ascoltatori all'800 24 0024 perché dobbiamo chiedere se hanno già o effettuato o quantomeno prenotato il cambio gomme della propria auto e soprattutto quali dubbi avete in proposito. Io intanto lo faccio il 14 maggio, dottor Bertolotti, sarò ancora in tempo? Proprio in corner. È sempre in tempo a cambiare le gomme estive con invernali, anche perché se sono pneumatici invernali di serie possono essere utilizzati sempre. Benissimo, allora anche su questo aspetto andremo, perché è molto caro a molti ascoltatori, quelli che vanno bene per tutto l'anno, un po' come una giacchina. Come Guara Denari. Sì, un evergreen. Voilà. Volevo utilizzare come paragone un abito, invece insomma questa è venuta molto meglio. Dottor Bertolotti, partiamo da Vacanze Sicure. Quali novità di questa 12ª edizione? Ricordiamo che si tratta ormai di una storica iniziativa di sensibilizzazione rivolta agli automobilisti. Sì, quest'anno saranno 6 le regioni: Friuli, Venezia e Giulia, Marche, Lazio, Campania, Basilicata e Liguria, quindi tutte le parti del nostro stivale coinvolte. 10.000 i controlli previsti. Inizio dal 15 di maggio al 15 di giugno. I controlli saranno quelli consueti, cioè lo stato di usura del pneumatico, la rispondenza alle caratteristiche previste in carta di circolazione e soprattutto l'omologazione delle gomme. Dove verranno effettuati questi controlli? Ci saranno dei posti di blocco in luoghi prestabiliti? No, direi che nei consueti posti di controllo le pattuglie della Polizia Stradale, ne sono state formate 450 che effettueranno questo tipo di operazione, quindi aggiungendo i normali controlli anche questi. Dopo ne parleremo, è un'operazione molto importante perché ogni anno permette di verificare qual è lo stato di salute del parco auto nel nostro paese, oltre che del parco gomme, certo. Perché si fa poi anche una verifica complessiva. 800 24 00 24, vedo già che gli ascoltatori stanno cominciando a prenotarsi, fra un po' li sentiremo, andiamo alla sostituzione, dottor Bertolotti. L'ora X è scattata il 15 aprile, giusto? Sì, dal 15 di novembre al 15 di aprile, dove ci sono delle ordinanze e c'è l'obbligo di montare pneumatici invernali o avere delle catene, ormai il periodo è finito, quindi si ritorna al treno di gomme estive, cioè quelle gomme che non hanno la scritta M+S con o senza una montagna a tre picchi con un fiocco di neve. Dopo ricorderemo anche, perché questo è un tema che appassiona molto gli ascoltatori, che cosa indica questa sigla, ma se non ricordo male dalle puntate precedenti, perché ad ogni cambio stagione noi naturalmente, certo, la ci dimentichiamo. Chiamiamo, ci dimentichiamo, ma poi dottor Bertolotti viene ad aiutarci. Le disposizioni non sono le stesse per tutto il territorio italiano, no? Perché cambiano a livello regionale, anzi a livello provinciale per essere precisi. Ci ricorda come funziona appunto proprio il quadro delle disposizioni su scala nazionale, quali sono le cose più importanti da sapere, ma a livello territoriale? In linea di massima le ordinanze, laddove sono previste, iniziano il 15 di novembre e finiscono il 15 di aprile. Questo è, diciamo, la regola generale su scala nazionale. Poi ci sono alcune regioni, tipo la Valle d'Aosta, che chiaramente per condizioni ambientali particolari inizia un mese prima e termina un mese dopo. Ma questo fa parte, diciamo, della possibilità di aggiungere in relazione alle condizioni climatiche della territorialità. Dopo il 15 di aprile, in linea di massima, certo, tutti i tratti stradali sono liberi e quindi si può circolare tranquillamente con pneumatici di tipo estivo. Anzi, è un consiglio, non è un obbligo, quello di circolare con pneumatici estivi. Allora, tra l'altro c'è già chi ci chiede chiarimenti sulle date che abbiamo dato. Allora, ci sono 6 mesi di tempo nel corso dei quali è bene utilizzare la gomma adeguata per la temperatura, certo, esterna e per la tenuta quindi del manto stradale. Si ha però un mese di tempo per fare questa sostituzione, perché allora io all'inizio ho detto 15 aprile, 15 maggio, dottor Bertolotti. No, Allora andiamo, chiariamo. Chiariamo. Se un automobilista impiega delle gomme come da carta di circolazione, siano esse di tipo estivo o di tipo invernale, può circolare tutto l'anno senza incorrere in problemi né di sicurezza né in sanzioni. Questa è la regola di carattere generale. Se esistono poi delle ordinanze, a questo punto c'è l'obbligo di montare pneumatici invernali nel periodo che va dal 15 di novembre al 15 di aprile. C'è poi una casistica particolare. C'è la possibilità di derogare una dei parametri prestazionali del pneumatico, cioè il codice di velocità. I pneumatici hanno un codice di velocità massimo a cui possono arrivare, ma nel caso di pneumatici invernali si può scendere dal codice di velocità massimo, magari previsto 200 all'ora, a 160 km all'ora. Questo consente di risparmiare soldi al consumatore, ma questa deroga vale solo nel periodo di vigenza delle ordinanze, cioè dal 15 di novembre al 15 di aprile, per consentire per questi, che è una piccola quantità di soggetti che si sono rivolti e hanno, diciamo, fatto premio su questa deroga. C'è un mese di tempo dal 15 di aprile in più, quindi 15 aprile fino al 15 di maggio, e anche in ingresso dal 15 di ottobre al 15 di novembre. Dopodiché questi non possono più essere impiegati. Questi, diciamo che la regola generale che molti percepiscono, che è quella di dire devo fare il cambio gomme, la sostituzione, il passaggio dagli invernali agli estivi, ho un mese di tempo dal 15 aprile al 15 maggio, è una regola generale inesistente. Non esiste, è una regola inesistente. I pneumatici invernali, come dice anche una circolare ministeriale, possono, se conformi alla carta di circolazione, possono essere impiegati tutto l'anno e non solo nel limite temporale previsto da ordinanza. Certo che questo non è il consiglio, perché è logico, va da sé, che se esistono pneumatici estivi è evidente che avranno un impiego ottimale in estate, stesso dicasi per gli invernali. Quindi è bene ritornare al treno specifico per la stagione, certo, per ottimizzare le prestazioni e anche per ridurre il consumo di carburante e consumo dei pneumatici stessi. Allora, adesso, prima di dare spazio ai nostri ascoltatori che ci stanno scrivendo e ci stanno chiamando, altre 49 238 6666 e all'800 24 0024, direi che possiamo anche giocare un po' con i nostri ascoltatori, Nicoletta. Volentieri. Ho portato con me solamente le scarpe, un cappello di lana per quando fa freddo e le carte. Enrico Ruggeri ci concederà questa licenza che ci siamo prese, perché abbiamo definito da questi microfoni le gomme della nostra auto un po' come le sue scarpine, per cui abbiamo preso la canzone Pezzo di vita, che inizia proprio riferendosi alle scarpe. Pezzi di vita, lo abbiamo ricordato anche ieri, è il nome dato all'ultimo album di Enrico Ruggeri, oltre che al suo tour che è iniziato proprio da pochi giorni. Noi a Cuore Denari anche oggi, così come ieri, vi diamo la possibilità di assistere ad una data. Precisamente oggi quattro di voi potranno accaparrarsi una coppia di biglietti per il 28 aprile all'Eroa di Torino. Come? Semplicissimo, basterà rispondere ad un nostro domandone chiamando l'800 24 0024. Ci sono delle date che con Fabio Bertolotti stiamo ripetendo in continuazione in questa puntata, sono le date del cambio di stagione per i pneumatici, quelle più diffuse sul territorio nazionale. È facilissimo, una data è primaverile, una è autunnale, allora se le avete ben fissate chiamate l'800 24 0024, diteci queste due date. Attenzione, perché la priorità viene data a chi chiama il numero verde. Quindi non vi conviene scriverci la risposta al 349-238-6666 con l'SMS. Un'altra raccomandazione, vi invitiamo a partecipare solo se siete interessati ad andare a vedere Enrico Ruggeri il 28 aprile a Torino, quindi se immaginate o di trovarvi in terra piemontese perché ci abitate o perché casualmente in quella giornata siete lì, mi raccomando, diamo la possibilità di vederlo a chi si trova davvero nelle vicinanze di Torino, non sprechiamo questi biglietti. Un'ultima volta il domandone, le date, le due date del cambio di stagione per i pneumatici, quelle appunto più note sul territorio nazionale. Una data è primaverile, una data è autunnale. Tra poco inizieremo ad assegnare i biglietti per il concerto del 28 aprile di Enrico Ruggeri. del capo ha un buco nella gomma. La macchina del capo ha un buco nella gomma. La macchina del capo ha un buco nella gomma. E noi la sisteremo con il chewing gum. E poi se vi pesca la polizia stradale durante la campagna Vacanze Sicure, come si chiama, dottor Bertolotti, sono guai, insomma, non appiccicate la gomma. Se il pneumatico appunto si sgonfia per qualche motivo. Allora, cominciamo a sentire gli amici da casa. Volentieri, andiamo subito da Mario, che ci chiama dalla provincia di Chieti. Benvenuto, buongiorno. Buongiorno Mario. Eccolo qua, ci dica tutto Mario. La mia era questa, una semplice domanda. Avendo un treno di gomma invernale e ho fatto 3 volte il cambio gomme, volevo sapere se adesso al cambio gomme potevo comunque continuare in estate a finirle di usare, di modo che se vado in gomma, non lo so, a qualche sanzione, a qualche cosa. Ecco, la domanda è proprio quella: continuare a usare le gomme d'inverno anche periodo estivo. Grazie Mario, abbiamo capito, non abbiamo bisogno di informazioni aggiuntive. La domanda è molto chiara: se quei pneumatici invernali sono con le caratteristiche dimensionali e prestazionali riportate nella carta di circolazione, può tranquillamente circolare tutto l'anno, quindi compresa l'estate, senza incorrere in sanzioni. Ovviamente devono essere anche non lisce e in buone condizioni. Infatti, qual è proprio lo... sono sempre un po' indecisa tra LOL e il pneumatico. LOL, la regola ferrea, la regola gergale ormai consentita. Perché mi viene più naturale dire il pneumatico viene meglio. Scateneremo come al solito tutti gli esperti dell'Accademia della Croce. Per gli pneumatici, mi raccomando. Mamma mia, per carità. Ma non mettiamoci l'articolo. Qual è la gomma completamente fuori legge, dottor Bertolotti? Insomma, quella che è guai a farla circolare in qualsiasi strada. Beh, una gomma fuori legge sicuramente non è omologata, innanzitutto, quindi non è controllata da nessuno, è una gomma che è liscia, che è una gomma che ha delle bozze, delle ernie, dei tagli sui fianchi che sono l'anticamera del cedimento strutturale, e poi magari è anche sottogonfiata. Se abbiamo questa combinazione di fattori, siamo certi abbiamo fatto bingo, quindi il problema di sicurezza c'è sicuramente. Primo, seconda cosa, ci pizzica la polizia stradale, che al controllo risultiamo con questa gamma di irregolarità che veramente comprende di tutto e di più. Quali sono le sanzioni che corriamo? Intanto ci possono ritirare la patente? Ma le sanzioni sono diverse, la patente forse eccessivo, però certamente abbiamo delle sanzioni peculiari nel caso il pneumatico fosse liscio, ma se liscio è trovato a circolare in autostrada, a questo punto oltre alla sanzione pecuniaria ci sono 2 punti di demerito, ma non finisce qui. Se la gente considera quella anomalia pericolosa per la sicurezza stradale, può disporre il fermo del mezzo amministrativo, fermo amministrativo del mezzo, quindi si può incorrere anche in un ritiro della carta di circolazione laddove abbiamo montati dei pneumatici diversi da quelli indicati in carta di circolazione, perché abbiamo alterato le caratteristiche costruttive del veicolo, che non sono stabilite da chi produce le gomme o chi le monta, ma sono stabilite da chi produce il veicolo stesso. Andiamo a Latina. Mi piace perché c'è Edoardo. Buongiorno. Buongiorno a lei, buongiorno dottor Bertolotti. Volevo porre una domanda più provocatoria che altro. Bravo. Allora, ecco, è una domanda molto semplice. Metta un po' di pepe alla puntata. Perfetto. No, la domanda è molto semplice, è questa. Allora, noi abbiamo delle limitazioni sulla velocità degli pneumatici, però... poiché il limite consentito dal codice stradale è 130 km all'ora, perché porre questa limitazione? Perché se dovrei essere soggetto a sanzione se monto una gomma, per esempio, che anziché essere 190 e 160? Io le rispondo con una controprovocazione, ma le vetture che circolano in Italia hanno un limite di velocità loro fisico di 130 km all'ora? Mi risulta esattamente il contrario. Anche le vetture di più piccola cilindrata hanno capacità di velocità ben superiore ai 130 km all'ora, quindi c'è la necessità di avere dei margini di sicurezza per evitare che qualcuno, come normalmente succede, vada oltre il limite di velocità e quindi crei dei problemi. Allora, qui ci sono tantissime questioni da affrontare, i famosi pneumatici validi per tutte le stagioni, Sempre soldi al cambio gomme, poi il gommista ammassa le gomme invernali in container esposti in pieno sole, si lamenta Gianni da Bergamo, ma se questo gommista lo pizzica Bertolotti gli tira naturalmente le orecchie, tanti che risolvono il problema tenendoli direttamente in garage, insomma le soluzioni pneumatici sono tante. Quattro stagioni. Esattamente, io direi che prima di tutto... Chiodati! Farei i mercati, se siete d'accordo. Vi bene, prendete questa pausa con me? Ma con grande piacere. Tra poco. Voilà. Cuore e denari. Ma le gambe a me piacciono di più. Non di gambe ma di caviglie parleremo nella seconda parte di Cuore e Denari a partire dalle 11.45. Le caviglie, quelle belle, sono sottili, almeno così si dice, ma noi ci occuperemo anche di quelle che sottili non lo sono più o non lo sono mai state. Noi piacciono tutte, l'importante è che si comportino bene, facciano bene il loro lavoro. Tra poco inizieremo parlando di distorsione alla caviglia, un incidente all'apparenza banale che può capitare a tutti e che tendiamo a liquidare con un po' di ghiaccio e una fasciatura, ma che spesso lascia il segno anche a distanza di tempo. Uomo avvisato, caviglia salvata. 800 24 0024. Diciamo che non è tanto contento effettivamente colui che è pieno di allergie, perché in questo periodo il proliferare di pollini, immagino Nicoletta, ce ne dovremmo occupare. Hai capito come aggancio che ti ho dato? E poi ci sono tante altre incombenze, insomma il cambio dell'armadio. Io non lo faccio. A me diverte tantissimo. E poi c'è il cambio delle gomme, naturalmente. Si deve passare dalla versione invernale a quella primaverile estiva. Il 15 aprile è scattata l'ora X per capire se dovete fare questo cambio. Controllate, dottor Bertolotti, in primo luogo la vostra carta di circolazione. Certo. Questa è l'informazione di base, di partenza, certo, che vale per tutti. E quindi non esiste nessun obbligo, nessuno ci punta la pistola alla tempia. Naturalmente controllate che la qualità delle gomme con le quali viaggiate, soprattutto se avete bambini a bordo, sia sempre adeguata alle condizioni del manto stradale. Un po' problematica è quella situazione, ritengo, di chi magari per lavoro viaggia molto e quindi si sposta su regioni diverse che hanno delle disposizioni diverse. Questo è il periodo di passaggio. Dottor Bertolotti, che cosa deve fare? Controllare le ordinanze di tutti i comuni o di tutte le province sulle quali transiterà? Ma proprio per ovviare a questo, le ordinanze ormai sono state unificate, quindi dal 15 di novembre al 15 di aprile. Questo è il periodo come da direttiva ministeriale, quindi ormai siamo fuori questo periodo, liberi, quindi non c'è certo più la regola, a meno di situazioni particolari, come dicevo prima, la Valle d'Aosta che ancora ha fino alla fine del mese, ma ormai è finito. Ormai siamo agli sgoccioli, certo, dai, infatti. Quindi andiamo tranquilli, se abbiamo delle gomme di serie, cioè delle gomme come la carta di circolazione, siano esse estive e invernali, siamo a posto e possiamo circolare senza sanzioni. Allora, ieri nel corso della conferenza stampa di presentazione di Vacanze Sicure, che abbiamo già citato prima, avete detto: abbiamo un'importante occasione per verificare come è cambiato nel corso di questo decennio l'approccio degli automobilisti nei confronti delle scarpe della propria auto, e soprattutto i dati rilevati e analizzati saranno fondamentali per ricavare utili raccomandazioni in vista degli esodi estivi. Dottor Bertolotti, voi di Assogomma, ma anche la Polizia Stradale complessivamente, che cosa vi aspettate? Se non ricordo male, lei anche l'ultima volta che è venuto da noi a trovarci ha denunciato che il parco auto degli italiani è davvero vecchio e sofferente. Certo che poi la crisi economica degli ultimi anni non aiuta a fare un'adeguata manutenzione dell'auto. Il dato di fatto è che più della metà, cioè la metà dei veicoli in circolazione, delle auto in circolazione, ha un'età superiore ai 10 anni e quindi necessariamente occorre fare opportuna manutenzione. Chiunque, anche chi non è tecnico, capisce che la propria vettura poggia su quattro gomme. E anche non fare tanti chilometri periodicamente, questo non implica che, anzi, forse implica che un controllo aggiuntivo va fatto. Ma il controllo va fatto a prescindere dai controlli, anche perché, ahimè, le strade ormai sono con tante buche, poi con volta, i cantieri di Milano, poi siamo, in questo periodo figuriamoci, siamo costretti a parcheggiare la nostra vettura, o non è una costrizione, ma di fatto lo facciamo, saliamo sul marciapiede, quindi l'urto contro una buca, contro uno spigolo, può produrre un danneggiamento sul fianco del pneumatico. Perché sorride Nicoletta? No, tu non parcheggi così? No, io non parcheggio più perché non uso più la macchina. È vero, tu non la usi. Ma? E mi arrampicavo anch'io un po' sui marciapiedi. Non sugli specchi, ma sui marciapiedi. Certo, quindi queste cose possono avvenire, quindi a prescindere dal numero dei chilometri, quindi può essere anche che il battistrada residuo sia sopra il limite di legge, che ricordiamo 1,6 mm, ma la gomma sia in pessime condizioni, certo, perché è addirittura con situazioni di bozze sui fianchi che sono l'anticamera del cedimento strutturale, in gergo tecnico, in gergo normale scoppio. Allora, gli ultimi minuti li dedichiamo così, papale. Tutti questi ultimi minuti che ci rimangono li dedichiamo completamente ai nostri ascoltatori. Cominciamo con Guido, così ci risolviamo il problema qui settone. Vediamo. Perché chiama da Torino? Brava. Buongiorno, allora, Guido. Intanto con le gomme come siamo messi? Io abbastanza bene, cioè praticamente io le ho cambiate a Roma 2 anni fa, però siccome che di cambio davanti e dietro praticamente le ho... tengo sempre in ordine. Lui va a Roma, da Torino va a Roma. Ecco, si trova comodo così. No, Roma, c'ho i parenti. Dove cambi le gomme? Va bene, Guido. Allora, andiamo al nostro quizzettone. Avevamo chiesto ai nostri ascoltatori, prima, per ottenere in cambio da parte nostra i biglietti per andare a vedere Enrico Ruggeri alle Rua di Torino il 28 aprile, quali sono le due date principali, quelle da tenere proprio inchiodate bene in testa, del cambio stagione per i pneumatici, Guido. Ma lo sanno anche i bambini. Ce ne dica. 15 aprile, 15 novembre. Benissimo, allora Bertolotti, gli ridiamo questi biglietti? Assolutamente sì. Lo mandiamo a vedere il concerto di Enrico Ruggeri, certo. Grazie a Guido. Oltre a lui, oltre a prendersi l'applauso, segnalo anche che biglietti vanno a Francesco da Firenze, Emiliano da Desio, Giorgio da Vinovo, provincia di Torino. Quindi guarda quanti gliene mandiamo ad Enrico, io non so che cos'altro dobbiamo fare ancora per lui. Allora, abbiamo già appunto appurato che andranno al concerto. Adesso torniamo invece alle nostre gomme montate sulla nostra auto. Raffaele da Modena. Raffaele. Salve, buona giornata. Altrettanto. Anche a lei. Buona giornata. Volevo intervenire per quanto riguarda il codice di velocità. Mi è parso di sentire che era possibile ridurre di un codice di velocità durante il periodo invernale. È vero, non di un codice, fino a Q. Il codice Q, che equivale a 160 km all'ora. Sotto non si può andare, questo codice fino ad un minimo di Q è consentito, purché si circoli nel periodo invernale che abbiamo ricordato prima, 15 novembre e 15 di aprile, ma ovviamente siccome è consentito in questo periodo uno deve avere il tempo per smontare e rimontare le gomme giuste, quindi c'è per questa situazione c'è un mese prima, dal 15 di ottobre al 15 di novembre, okay, e un mese dopo dal 15 di aprile al 15 di maggio per ritornare al treno estivo con codici di velocità pieni, perché la deroga vale solo per gli M+S in inverno. Certo. Dottor Bertolotti, una curiosità, secondo lei è più pericoloso, lo sarà sempre immagino, viaggiare con lo pneumatico sbagliato, non a norma, in inverno o in estate, quando la strada è ghiacciata o quando è molto calda? Credo che sia difficile dare una risposta. Quando un pneumatico è sbagliato, la vettura assume dei comportamenti che non sono corretti, siano essi in estate che in inverno, quindi occorre sempre scegliere gomme idonee al periodo stagionale, ovviamente delle dimensioni e delle prestazioni previste, e ricordiamolo perché serve, opportunamente gonfiate, perché è inutile comprare delle gomme performanti se poi non si provvede alla periodico ripristino della pressione di gonfiaggio. C'era un ascoltatore prima che parlava dello stoccaggio, allora del treno di gomme. Lo stoccaggio delle gomme va fatto a ragion veduta, e sul nostro sito www.pneumaticisottocontrollo.it ci sono delle raccomandazioni che sono state redatte a livello internazionale, ciascuno può scaricarsele, può leggere, quindi provvedere. Sono, diciamo, indicazioni banali, ma che devono essere seguite per mantenere nel tempo le caratteristiche del pneumatico. Certo, possono essere utili a noi, dottor Bertolotti, se naturalmente questo treno di pneumatici decidiamo di tenercelo in garage, certo, no, perché no, magari vogliamo farlo. Se no lo lasciamo dal gommista. Ma se lei pesca il gommista che se le tiene sotto il sole, come ci ha segnalato prima l'ascoltatore? Che qualcuno non rispetti gommista. Le norme non è il gommista, è la regola, ahimè, generale. Però i gommisti, gli importatori, i distributori sanno fanno, molto bene, anche perché è nel loro interesse conservare le gomme anche come servizio ai loro clienti. Servizio che teoricamente dovrebbe essere, insomma, se abbiamo un gommista di fiducia, gratuito. Non è che questa sostituzione, quanto tempo ci mette un gommista a farla? La sostituzione dipende dal veicolo, ma all'incirca 20 minuti, mezz'ora, ecco. Questo è il tempo per ripristinare il treno, mentre il costo, diciamo, di stoccaggio in linea di massima è un costo inesistente o banale, in genere legato proprio alla polizza assicurativa, perché giustamente se io affido le mie gomme al gommista è chiaro che poi all'inizio della stagione successiva voglio averle. Con una trentina di euro ce la possiamo cavare? Diciamo 10 euro a gomma, 40 euro una quarantina di euro. Tu avevi già, ti avevi già fatto lo sconto? Sì, no, avevo già fatto un piccolo monitoraggio di chi ha speso queste cifre, quindi le avevo sentite. Sì. Marco dalla provincia di Monza Brianza. Buongiorno. Buongiorno. Saluti a tutti. La mia domanda è, voi non salite più sui marciapiedi, invece a me un marciapiede non mi ha dato la precedenza, mi ha distrutto una gomma. Manna, non ci sono più i marciapiedi di una volta. Di una volta, veramente. Galantuomini. Allora io avevo cambiato le due gomme del treno posteriore, tutto a posto. Purtroppo quest'anno ho rimontato le gomme, una era difettosa. Non ho più la possibilità economica di comprarmi le due gomme, ho una gomma avanzata dal treno dell'altra volta. Sì. La misura è giusta. Certo. Marco, veloce, chiediamo a Bertolotti, ecco. La può montare? No, Marco, che cosa dice? No, allora c'è una regola ferrea: le gomme, i pneumatici montati su uno stesso asse devono essere assolutamente identici, quindi è consentito montare pneumatici anche di marche diverse sui due assi, però le gomme sull'asse anteriore devono essere identiche e sull'asse posteriore altrettanto identiche. Poi diciamo chicca, se volete: i pneumatici nelle migliori condizioni devono essere sempre montati sull'asse posteriore, perché quello anteriore uno lo governa, ma se si perde di aderenza a retrotreno. Anche questa, insomma, è un'informazione molto utile. Dottor Bertolotti, io devo salutarla, ci rivedremo certamente prossimo autunno, magari rifaremo un punto a breve. Mi ricorda il sito dove tutte le raccomandazioni che ci servono su questo argomento, certo, dove possiamo il sito trovare? È www.pneumaticisottocontrollo.it, un sito di servizio, trovate tutte le informazioni, anche norme di legge e anche filmati che possono essere utili per capire la ragione per la quale è opportuno cambiare le gomme, montare estivi o invernali. Certo, poi mi rendo conto che qualche volta può apparire in questo momento un costo aggiuntivo, però adesso cominceremo ad andare un po' più fuori con questi bei weekend estivi, quindi è importante che si viaggi in totale sicurezza per noi, per la nostra famiglia, ma per tutti quelli che viaggiano sulle strade, no? Grazie. E attenzione ai marciapiedi che non si comportano bene. Ahimè, lo spigolo vivo va evitato perché fa male. Grazie molto, buon lavoro, dottor Bertolotti. Buona giornata. Buon viaggio. A proposito di viaggio, andiamo a sentire sulle strade italiane cosa sta succedendo in questi minuti. Cuore e denari. Vogliamo proporvi di fare un salto. 800 24 00 24, saltate la barriera rosa e intervenite in diretta a Cuore Denari. Parliamo di caviglie, chiamateci se è un salto ad averle messe KO, un incontro ravvicinato con un vostro compagno di calcetto o ancora una storta d'attacco 12. La caviglia è una delle strutture del corpo umano più soggetta a sollecitazioni, sia in ambito sportivo sia durante la quotidianità, e quindi è molto esposta ai traumi di lievo grave entità, oltre che a diverse patologie. Ne parleremo tra poco con un grandissimo esperto che vi piace molto. 800 24 00 24, se avete le caviglie, qualche problema alla caviglia, iniziate a prenotarvi, ma intanto raccogliamo le idee con la nostra scheda. Camminando, senti che la tua caviglia fa rumore, anche senza avvertire alcun dolore? Se sali le scale o cammini su un terreno scosceso, hai la sensazione che la caviglia ceda? Che sia meno stabile dell'altra? Quando stai in piedi a lungo, le tue caviglie si lamentano? Prova a ruotare il piede in senso orario. Fai dei cerchi immaginari con la punta dell'alluce, prima piccoli, poi sempre più ampi. Tutto bene? E se invece ripeti l'esercizio in senso anti-orario? Prendi spesso delle storte, anche quando non hai la testa per aria o non sei su tacchi vertiginosi? Vi siete riconosciuti? Bene, chiamateci subito, lo state già facendo, il nostro numero verde è a vostra disposizione, così come il nostro ospite, il professor Roberto D'Anchise, primario ortopedico all'Istituto Scientifico Galeazzi di Milano. Bentornato. Buongiorno a tutti. Che bellezza, abbiamo tante due caviglie. E due adorabili ospiti, wow. Posso dire? Caviglie, sì. Ginocchio, legamenti, sono tendini, arrossito. Abbiamo un bel ben di Dio. Professore, la caviglia è più propriamente l'articolazione tibiotarsica, si bravissima. Chiama così? Mamma. Ho copiato, Può darci non pochi problemi, a cominciare lo sappiamo dall'aspetto, perché anche se credo che su questo, professor D'Anchise, lei non ci possa aiutare, prima di parlare di malessere vorremmo parlare di bellessere. Abbiamo letto con Deborah che le caviglie, per essere in armonia con il resto del corpo, chiediamo naturalmente anche aiuto ai nostri amici che ci stanno ascoltando, e quindi valorizzare la gamba, dovrebbero avere una circonferenza superiore di un terzo rispetto a quella dei polsi. Ad esempio, se il nostro polso misura 15, la caviglia dovrebbe misurare 20 centimetri. Che ne dice? Ci fidiamo? Mi fido di lei. Ci fidiamo? Mi fido di voi. Sì. E voi che dite da casa? Iniziate a chiamarci. Ma al di là delle dimensioni, diciamo che posta lì come un punto di snodo tra la gamba e il piede, la caviglia ne vede, ne sopporta di tutti allora. I colori. È molto sollecitata. Molto, molto sollecitata. È un'articolazione molto serrata, nel senso che è fatta dalla tibia e dal perone. La parte finale della tibia e la parte finale del perone, che creano una specie di blocco che contiene il piede, definiamolo così, o meglio un osso del piede che si chiama astragalo, ed è un'articolazione molto serrata, ma come le articolazioni che ci portano a spasso, caviglia e ginocchio, sono quelle più sollecitate per quanto riguarda i traumi. È un'articolazione complessa, ed essendo anche rigida ha anche un rischio non indifferente di frattura, nel senso che una sollecitazione eccessiva in un'articolazione mobile non crea fratture dell'osso, certo. Mentre un'articolazione molto rigida a un certo punto è più facile che si possa rompere, e sono quelle fratture dei malleoli che sono le più frequenti. I malleoli sono la parte finale interna della tibia e la parte finale esterna del perone. Il perone è un po' più basso rispetto alla tibia, quindi alla parte interna. Quindi è un'articolazione molto complessa, molto sollecitata, e purtroppo se le sollecitazioni comportano danni significativi non è così facile affrontarli, specialmente per quanto riguarda le fratture. E ultima osservazione: la parte finale della tibia e l'astragalo sono due tessuti di relativa poca consistenza e si possono rompere più facilmente da impatto, cioè con un salto dall'alto atterrando può creare questo problema, e sono molto difficili da ricostruire. E se un'articolazione non viene ricostruita perfettamente, un'articolazione portante, ecco che può dare nel tempo origine ad una usura della cartilagine e quindi l'artrosi. Andiamo subito a Claudia, che ci chiama da Roma. Buongiorno, benvenuta. Buongiorno. Benvenuta, Claudia. Che piacere sentirvi, la prima volta che riesco ad intervenire. Speriamo che non sia l'ultima, Claudia. Speriamo che il professor D'Anchise mi possa aiutare, perché è un però problema da 35 anni. Speriamo chiamare sempre anni. Per problemi. Sì. Dunque, veramente cerco di spiegare. Giocando a guardie e ladri all'età di 14 anni, quindi ben 35 anni fa, perché ne ho 49. Che non è uno sport olimpico, mi pare. No, no, però lo diciamo che lo pratico ancora con i miei figli al momento. e mi piace molto, no? Però mi ha creato dei problemi, mi hanno ingessato anche la caviglia, secondo l'ortopedico non so se ha fatto bene, perché era una distorsione, non una rottura. Sì. Ho fatto fisioterapia, però ancora adesso... Bene. O portando il famoso tacco 12 o facendo sport, mi si gonfia e mi crea. Per questo, Claudia, dicevamo, non dimentica. Che cosa avverte? Manca la parte finale, appunto. Certo. Dunque, mi si gonfia, sì. Mi si gonfia proprio adesso, non so esattamente se. Di solito nella parte esterna si gonfia. Si gonfia, sì, nella parte esterna, quindi forse nel perone. Sì. E mi si gonfia, mi dà dolore, ma anche io spesso devo dormire con le gambe alzate, con dei cuscini, per cercare di far defluire, insomma, questo gonfiore. E mi dà molto fastidio, pure se porto un tacco 12 per un giorno, poi per tre giorni devo stare sempre. Lei ha fatto degli accertamenti, perché ovviamente questa è la cosa importante, nel senso che quello che deve essere fatto è una radiografia per vedere che non ci sia stata, come dicevo prima, una fratturina che può nel tempo aver provocato un'usura della cartilagine, e un altro accertamento molto importante è una risonanza magnetica che ci fa vedere lo stato dei legamenti, perché un elemento importantissimo è che questa articolazione è mantenuta collegata sia tra perone e tibia che al piede da legamenti molto importanti. Se questi legamenti si rompono, ovviamente ci possono essere delle problematiche. Allora, noi oggi, anche dopo il GR, parleremo di caviglia, ma non possiamo dimenticarci che la caviglia non è un'articolazione a sé, ma è in stretta connessione con altre articolazioni, prima fra tutte quelle del ginocchio. E quindi, professore, se c'è un legame molto stretto fra i due, ne parleremo nella seconda parte della trasmissione. Ma chi guida la relazione? La caviglia. La caviglia. Guida la caviglia. Guida la caviglia. 800 24 00 24, è tempo di dare la linea al nostro GR. Iniziate e continuate a chiamarci. Spazio alle vostre telefonate subito dopo il GR. Allora, il gastronauta l'ho convocato io, Barisoni l'ho convocato io, Cruciani e Parenzo ci sono, e effetto notte, effetto giorno, ma tutti convocati, siete tutti convocati tutti i giorni, io gente! Non sono abituato a vederti senza parlarti al telefono, e quindi sono abbastanza emozionato. Se vuoi ti rifaccio l'effetto del telefono che non... No, è meglio così. È meglio così. Pierluigi Pardo, inizia questo finale di stagione pirotecnico in cui si assegneranno tutti i titoli. Chissà chi vince lo scudetto, per esempio, non lo so, ho dei grossi dubbi. 14.05 tutti i giorni a Rudy Alverdi, tutti convocati. E lo scopriremo. Cuore e denari. Invece oggi noi vogliamo salvare le nostre caviglie e lo facciamo insieme al professor Roberto D'Anchise, primario ortopedico all'Istituto Scientifico Galeazzi di Milano. Professore, abbiamo detto che la caviglia è un po' permalosa. Se prendiamo una distorsione non dimentica, forse perché non la curiamo per bene, no? Trascuriamo un po' questo trauma, perché a chi non è capitato, no, di prendersi una storta. Allora, indicazioni per non sbagliare. Allora, prima di tutto bisogna fare un esame radiografico sempre, anche se non si ha un dolore preciso, sempre un esame radiografico, perché ci possono essere delle fratture che non fanno tanto male e devono essere curate in un certo modo. Dopodiché, ovviamente, controllo dall'ortopedico, mediamente il trattamento è quello con bendaggio, se la distorsione è molto importante con un gesso, però mediamente il bendaggio con un carico parziale. L'elemento importante è cosa fare dopo, perché bravo. Lo so. Grazie. No, è vero, perché poi uno dice vabbè, no, dai, ecco, ci cammino, perché molti mi dicono vabbè, tolto il bendaggio vado a giocare a pallone. Anche se non si ha dolore, se la caviglia si muove bene, è molto importante fare quelli che si chiamano gli esercizi propriocettivi. Qual è il concetto? Il concetto è quello di stimolare i muscoli che stabilizzano la caviglia con sollecitazioni anomale. Di solito si fa su una tavoletta con un'emisfera sotto e quindi si creano delle sollecitazioni anomale in maniera tale da far sì che ci sia una propriocezione, cioè la capacità di resistere agli stimoli anomali, e si rinforzano i muscoli che sono stati a riposo per l'immobilizzazione. Questo è un elemento fondamentale, ma questo poi comunque in assoluto, anche se sta benissimo dopo un'immobilizzazione, qualsiasi parte del corpo, mai riprendere subito, prima recuperare il tono muscolare. Andiamo a Giovanni, che ci chiama da Vicenza. Buongiorno. Sì, buongiorno. Buongiorno. Buongiorno Giovanni. È un piacere parlare con voi. Anche per noi, Giovanni. Vada. Io, brevemente, parlo per mio figlio Tommaso di 11 anni, che quest'anno ha iniziato a giocare a pallavolo. Tutto bene fino a un certo punto, poi ha avuto una prima distorsione alla caviglia mettendo il piede sopra quello di un compagno. Una cosa che forse abbiamo un po' trascurato, e dopo un paio di settimane ha ricominciato a giocare. Solo che successivamente ha avuto altre due distorsioni, l'ultima volta più forte. Sì, ha portato le stampelle per un mese. Abbiamo fatto anche una risonanza magnetica. Sì. La risonanza magnetica evidenzia che il legamento non è rotto, sì, però c'è parecchia lassità. Sì. Abbiamo paura che possa compromettere caviglia lassa. Sì, cosa vuol dire? Un momento. L'elemento importante è che oltre al trauma esiste la sfortuna, diciamo sì, così, nel senso che molte volte uno è sfortunato e con un trauma adeguato alla distorsione e ne prende anche altre due. Quindi l'elemento importante è capire se c'è stato un trauma adeguato, perché se il trauma adeguato ha creato la distorsione, questa si chiama sfortuna. Se il trauma non è adeguato, è chiaro che ci può essere una lesione legamentosa cronica che in qualche caso, se la propriocezione, quello che dicevamo prima, non dovesse funzionare, bisogna operare ricostruendo questi legamenti. Il nostro amico però parlava di lassità, si sente, si legge anche su forum e interviste di questa caviglia che è lassa. Che cosa vuol dire? Allora, una caviglia un po' ballerina? Se la caviglia è lassa ed è l'unico elemento lasso dell'articolo del corpo, è possibile che sia la conseguenza del trauma. Esistono delle lassità congenite globali dei pazienti, delle persone che hanno, non so, il polso che si muove moltissimo, il pollice che si muove, e per quelle purtroppo non c'è molto da fare. Professor D'Anchise, lei ha dato delle indicazioni su come trattare la distorsione, ma i messaggi che ci stanno arrivando e anche le storie dei nostri ascoltatori dimostrano che spesso si trascura, i problemi arrivano. E si possono presentare deficit di equilibrio, oppure di forza, oppure di mobilità. Sono tre situazioni diverse che rendono comunque i nostri passi meno sicuri e che forse hanno origini diverse su cui si può intervenire differente. La limitazione di movimento di solito è la conseguenza di una frattura con prolungata immobilizzazione o di una frattura che non si è riusciti a comporre perfettamente. Ricordiamoci che l'immobilizzazione è come se fosse una malattia. Ci sono proprio delle patologie da immobilizzazione che sono la perdita di tono calcico e la limitazione del movimento. Quindi è la cosa più grave che può capitare, la limitazione del movimento, perché la caviglia deve muoversi bene sia in flesso estensione, cioè sia verso l'alto che verso il basso, che anche nei movimenti di pronazione e supinazione, che sono quelli obliqui, definiamoli sì, così. Quindi direi che questi elementi sono da prendere in considerazione. Ripeto, è molto importante dopo l'immobilizzazione recuperare in fretta il movimento, perché l'articolazione si abitua a muoversi meno e questo comporta delle problematiche. Ci scrive Antonio: Deborah, hai letto, sono soggetto spesso quando cammino a lievi distorsioni, io dico che inciampo sulle formiche. È normale o sono imbranato? A lungo andare posso avere problemi? Beh, forse sì, è un'instabilità, proprio non è un problema di caviglie, ma forse di no, potrebbe essere allora qui bisognerebbe analizzare se non ci sono dei problemi neurologici, perché anche questo dobbiamo fare molta attenzione. Come dicevo prima, che esiste la sfortuna oltre al trauma, dobbiamo fare attenzione quando un paziente dice che è instabile, che non sia un'instabilità legata ad altri fattori. Se invece l'instabilità è un'instabilità reale, rientriamo in quelle situazioni di cui si parlava prima, in cui in qualche caso bisogna anche operare. Sono molto rare, devo dire, gli interventi di instabilità cronica, perché la propriocezione fatta bene dà di per sé una certa stabilità. Io insisto molto su questo. 800 24 00 24 c'è una amica di Cuore Denari che ci scrive che da bambina la sua maestra di danza l'aveva insegnato a non fermarsi ma a camminare e correre dopo una distorsione alla caviglia. Brava. Ho sempre seguito il consiglio con buoni risultati, anche se non so dare una spiegazione logica. Non ha avuto un trauma significativo. O adeguato. Dove andiamo, Deborah? Allora, andrei, perché stavo aspettando da un pochino, da Fabrizio, che ci chiama proprio da qui vicino, da Milano. Fabrizio, benvenuto. E nel frattempo Fabrizio si è stancato, si è allontanato. E allora noi peschiamo Anna da Ancona. Vedi che Anna, che le Marche non mi deludono mai. È una garanzia, vedi? Fedelissime. Anna. Buongiorno care amiche, che siete carissime. Grazie siete Anna. Allora, io volevo dire che, come ben sapete, Ancona c'ha belle salite e discese. Sì. Io l'ho fatto andare su a San Ciriaco, lì una bella passeggiata. Esatto. E venendo giù da... Io abito lì vicino, in zona, insomma. Venendo giù da lì... In velocità, camminando veloce, ho preso una bella buca. Il signore che mi ha soccorso ha detto che io ho fatto una rotazione a 360 gradi e mi sono fratturato il malleolo. Ho fatto i 40 giorni di gesso e poi tanta fisioterapia, perché ho avuto tutte le complicazioni possibili e immaginabili, tutti quegli ossetti, osso e legamenti di cui che parlava il professor D'Anchise conosce, eccetera, eccetera. Sì. Ora, io devo dire che ho fatto un'ottima fisioterapia, ma ci sono andata avanti tanto. Io quello che sento, professore, è che il piede destro ormai lo sento un po' diverso dall'altro, e quando cambia il tempo sento, e naturalmente mi dicevano che io, purtroppo, avuta una di cui era una slocatura, ma non si sapeva che c'era ci si è accorti dopo, una preesistente frattura. Io ho questo piede che lo sento un pochino più leggero dell'altro, più fragile, lui tende a quando entrare si è fatta a male. Quanto tempo è passato dal trauma? Io nel febbraio del 2013, cioè sto molto meglio, però per esempio se faccio una salita molto ripida, io qualche volta non ce la faccio. È ancora lì. Ci sarà un po' di limitazione di movimento, probabilmente non ha fatto una riabilitazione adeguata. Quello che dicevo prima, attenzione che le articolazioni tutte in generale si abituano a non muoversi, e quindi quando noi abbiamo un'immobilizzazione prolungata, se non dedichiamo subito parecchio tempo al recupero del movimento, può rimanere questa situazione. E adesso io non so se per lei è possibile, ma quel discorso che continua a ripetere di fare della ginnastica propriocettiva potrebbe aiutarla a dare un po' di forza. Su e giù per la salita? Su e giù per San Ciriaco. Professor D'Anchise, prima dei mercati abbiamo detto che tra la caviglia e il ginocchio c'è una relazione, no? Sì, abbastanza stretta, i due. A volte guida la caviglia, a volte guida il ginocchio. Quando? Ci sono delle situazioni che... Allora, dipende da quello che è malato, fondamentalmente. Esatto. Nel senso che se uno ha un ginocchio valgo, che è il ginocchio AX, diciamo così, chiaramente per poter camminare dritto il piede deve mettersi in una certa posizione, e rimanendo in quella posizione a lungo progressivamente le ossa si possono deformare. Viceversa, se uno ha un piede che appoggia male, si ripercuote anche sul ginocchio. A volte ci sono dei pazienti che non hanno apparentemente nulla al ginocchio, ma hanno male, e infatti io dico sempre che bisogna visitare i pazienti togliendo anche le calze, perché se uno visita l'anca o il ginocchio magari non ci pensa, e invece si nota un piede anomalo che può essere la causa di un disturbo articolare più alto. Forse è tornato Fabrizio. Dici? Ci ama ancora. Fabrizio, Si era allontanato un attimo. Buongiorno. Buongiorno Nicoletta, buongiorno Debra. Aspettavamo. Noi aspettavamo lei e nel più bello non lei è andato via. È caduta la comunicazione. Ah, quindi non ci aveva abbandonato. No, ci mancherebbe. Magnifico. Senta, professore, io sì. Circa 20 anni fa ho avuto un infortunio, una caduta dall'alto col parapendio, dove mi sono fratturato il perone e ho avuto un avanzamento della astragalo. Sì. Ora sono 20 anni che zoppico, perché avendo avuto questo avanzamento della astragalo, il perone è a posto, non ho problemi. Mi era stato proposto 20 anni fa un intervento in artrodesi. Sì. Ora volevo sapere allora. Se... Adesso le cose sono andate avanti fortunatamente, rimane ancora come scelta l'artrodesi, che è ben tollerata nella caviglia. Per esempio l'artrodesi del ginocchio, l'artrodesi dell'anca, essendo... Spieghiamo che cos'è. Scusi, avete ragione. Artrodesi vuol dire che si blocca l'articolazione. Sì. E è chiaro che se io blocco un'articolazione che ha tanto movimento, come il ginocchio che si flette, che ci serve per sedere, questo è molto mal tollerato. Se io blocco un'articolazione come la caviglia, se fatta bene è abbastanza ben tollerata. Oggi però, grazie al cielo, le cose sono andate avanti e si fanno anche delle protesi. Diciamo che i risultati sono sempre di più soddisfacenti, anche se non siamo ancora al top come può essere per l'anca o per il ginocchio, si stanno ancora studiando elementi. Quindi se lei ha male, se lei è stufo di questa situazione, l'indicazione a fare la protesi secondo me potrebbe esserci. E attenzione, se la protesi non dovesse andare bene, si può passare all'artrodesi. Quindi, però prima protesi e poi secondo artrodesi, me sì. Questa è, certo. È l'indicazione. Fabrizio ci faccia sapere. Andiamo a Gaetano. A Gaetano, voilà, Gaetano, benvenuto. Grazie, buona giornata a Nicoletta e Deborah. Un saluto anche al dottore. Grazie a lei. Volevo fare una domanda. Io a luglio, giocando una partita tra amici per lavoro, ho avuto un infortunio. Facendo un muro sono ricaduto a terra e mi si è girato il piede, una caviglia all'interno. Che dolore, un bel dolorone. Molto. E facendo la risonanza è risultato che mi si è rotto un legamento, adesso mi sembra il legamento astralgico. Peroneo astragalico. Esatto. E niente, praticamente mi hanno ingessato la caviglia per 15 giorni, poi ho messo il tutore, ho fatto la ginnastica e adesso... apparentemente sembra tutto normale, cioè il legamento è rotto, però la funzionalità della caviglia l'ho recuperata al 100%. Il mio problema è che facendo l'agricoltore, il mio dubbio è lavorando diciamo sempre in terreni un po' sconnessi così, non vorrei che magari un domani potrei magari ripeto quello che continuo a dire, mi sembra di essere un po' ripetitivo. La ginnastica propriocettiva è quella che può certamente aiutarla, cioè avere una muscolatura valida e la capacità di affrontare rapidamente l'emergenza, istintivamente più che rapidamente, secondo me è molto utile. Professor D'Anchise, un minutino, vorrei chiederle, la caviglia può essere anche sede di artrosi? Sì. C'è un dolore tipico che può, no, indicarci, non a farci l'autodiagnosi, ma a capire che quel dolore deriva un po' forse dall'usura o invece da un sovraccarico. Professore, quali sono? Più che i sintomi, purtroppo l'unico elemento sono gli accertamenti. Sì. Volevo dire un po' di cose. L'artrosi sicuramente è quella che è più frequente, certo. Ma esistono delle patologie che ci hanno un po' insegnato la risonanza, che consiste nella sofferenza dell'osso dell'astragalo, che non è rotto, ma che soffre come se arrivasse meno sangue. E questo alle volte è una causa di dolore che prima della risonanza noi non capivamo e che la sola radiografia non riesce ad evidenziare. E l'altro elemento da tenere presente è che anche le malattie reumatiche o la gotta, per esempio, possono dare delle sinoviti, quindi delle infiammazioni articolari. Quindi ci possono essere delle patologie non necessariamente ossee, non necessariamente legamentose, ma di tipo reumatico da tenere presente. Fantastico, no? Abbiamo raccolto tutte le informazioni. Già, guarda come cammino come una libellula solo a sentirlo, il professor D'Anchise. Stanno zoppicando, non è vero? Professor D'Anchise, torni presto a trovarci. Grazie. La ringraziamo per essere moltissime. Stato con noi. Noi ritorniamo domani invece. Con le nostre caviglie. puntualissime alle 11. Buona giornata a tutti.